Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio ad Andrea Ferro, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì qui a Radio 24 con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Il primo ospite di oggi è Patrizio Ricci, presidente nazionale di CNA FITA. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, nei giorni scorsi c'è stato il nuovo incontro in videoconferenza tra i rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e la ministra De Micheli. Alcune questioni rimaste aperte si stanno sbloccando, Ricci. Si è parlato dei tempi di pagamento con una norma che ormai dopo molti anni sta arrivando addirittura d'arrivo, sui valori indicativi di riferimento, cioè trovare quello strumento che oltre a stabilire quale è il punto di caduta che riguarda anche la sicurezza stradale, che riguarda il mondo dell'autotrasporto, dando un'indicazione su quello che riguarda il trasporto. L'intermodalità, cioè quello, il mare bonus, il carro bonus, cioè spostare poi anche le merci in alternativa allo stradale con quel rimborso che riguarda il mondo dell'autotrasporto. Le operazioni di affidamento delle revisioni ai veicoli pesanti, ai privati. Noi siamo in deroga e io continuo a dire che la sicurezza non può viaggiare in deroga. Perciò risolvere questo annoso problema, no, delle motorizzazioni che non riescono a sopperire a tutto quella mole di lavoro che riguarda il mondo dell'autotrasporto e spostare e affidare le revisioni dei mezzi pesanti ai privati, credo che sia la strada maestra, no, per portare poi a regime, cioè quando scade effettivamente la revisione, poterla fare in quei tempi. Sì, la questione delle revisioni, come quella dei tempi di pagamento, da quello che si è capito, saranno inserite nel decreto semplificazioni, ma sul tavolo ci sono, c'erano anche altri punti. Noi avevamo fatto un accordo con la ministra dicendo che gli Euro 3 e gli Euro 4 dovevano arrivare in autunno alla scadenza e non poter più avere quel rimborso sulle accise. È evidente che in un momento come questo gli autotrasportatori non riescono a sopperire a questo cambio di veicoli, spostare un po' più in là. Questo potrebbe aiutare per mantenere liquidità all'interno delle aziende. Ecco Ricci, noi ci eravamo sentiti in questo programma all'inizio del lockdown, lei ci parlava e ci parla anche oggi da Bergamo, uno dei territori più segnati dall'emergenza, ricordo le sue parole cariche di emozione, ora siamo entrati nella fase 3, come si guarda al futuro da parte delle aziende di autotrasporto del suo territorio? C'è questa voglia di ripartire, ormai l'abbiamo capita, ma non solo nel mondo dell'autotrasporto in senso generale, solo ripartendo riusciremo a rimettere in piedi tutto quello che il coronavirus, questa pandemia ha distrutto. Le aziende, secondo una stima, intorno al 30-35%, sono riuscite comunque a lavorare garantendo il minimo, no, indispensabile, no? Qualcuno ha lavorato qualcosa di più. Qualcuno ha lavorato anche sotto costo, non avendo poi i ritorni, perché comunque il mercato in alcuni, no, settori era fermo. Perciò questa ripartenza rimette insieme tutto questo. Noi siamo aziende di autotrasporto, noi facciamo servizio, fondamentalmente non produciamo niente. Perciò bisogna un attimino che noi ritorniamo a quella sorta di normalità, che però sicuramente la vedremo dopo agosto, dopo, perché anche in alcuni settori, dico, il settore della scuola, alcuni di noi fanno consegne nelle mense, tutto il mondo deve ritornare a questa sorta di normalità per mettere nelle condizioni anche il nostro comparto di continuare ad essere quello che era prima della pandemia. Patrizio Ricci, presidente nazionale di CNA FITA, grazie per essere intervenuto ad Hashtag Autotrasporti, buona giornata e buona settimana. Grazie a tutti voi. Come abbiamo raccontato più volte, come abbiamo visto, sperimentato, constatato direttamente, in questi mesi il commercio online ha subito una clamorosa impennata. Secondo i dati di uno studio diffuso in occasione della presentazione del rapporto Mobilitaria 2020, elaborato da Kyoto Club e CNR, l'home delivery ha aumentato del 162%. Addirittura l'instant delivery, cioè la consegna che avviene nel giro di poche ore dall'acquisto, solo a marzo è cresciuto del 300%. Massimo Marciani, presidente del Freight Leader Council, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Come commentiamo questi dati che chiaramente impattano sul sistema logistico? Questo periodo è come se avessimo fatto un balzo in avanti tutti quanti insieme di 5 anni. La velocità con cui si è raddoppiata la domanda per le consegne a domicilio non ha precedenti in tutta la storia italiana e ha pochissimi precedenti anche in altri paesi europei. Quella che è stata una necessità, cioè quella del distanziamento sociale, l'impossibilità di potersi recare fisicamente presso i punti vendita e presso i vari negozi che al momento del lockdown erano chiusi, ha portato e ha stimolato tutta la popolazione italiana a guardare all'acquisto digitale, al canale digitale con diciamo, uno sguardo diverso. Abbiamo visto un aumento incredibile da questo punto di vista, raddoppio delle consegne e anche adesso che il lockdown è entrato nella fase 3, vediamo che rimane ancora una componente molto forte di richiesta per le consegne a casa. Ecco, l'esperienza di questi mesi forse dovrebbe essere l'occasione per codificare e tarare meglio tutti i servizi logistici collegati all'e-commerce. Mi riferisco ad un bilanciamento tra le esigenze degli acquirenti, i costi, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi, sia in termini economici che ambientali. Quello è il punto fondamentale, quello che ha toccato lei è il punto sostanziale. Noi abbiamo una crescente domanda di consegne a domicilio e allo stesso tempo non abbiamo analoga disponibilità da parte del consumatore, del cittadino, a pagare questo servizio. È come se noi volessimo essere trasportati da una parte all'altra della città usando il taxi, ma senza voler pagare l'autista che ci offre questo servizio. Ecco. Noi ci siamo impegnati e ci stiamo impegnando molto per far comprendere al cittadino e al consumatore che questo è un servizio importante, un servizio a valore aggiunto che per questa ragione deve essere pagato. Perché attraverso il pagamento di questo servizio noi riusciremo a renderlo sostenibile per la città e riusciremo a renderlo sostenibile anche per i lavoratori di questo settore, sui quali poi alla fine ricade l'onere della consegna e ricade l'onere diciamo, del portare le merci che ci occorrono presso le nostre abitazioni. Con lo sviluppo tumultuoso dell'e-commerce si manifestano due esigenze operative. Da una parte, per gestire le scorte c'è sempre più necessità dei cosiddetti magazzini di prossimità, cioè vicini alle aree di consumo. Dall'altra, si cerca di fare sempre più ricorso ai lockers, cioè a quegli armadietti che permettono al cliente di ricevere la merce in sicurezza e contemporaneamente agli operatori di concentrare in un solo punto le consegne. Marciani. Sono due prospettive molto interessanti. In questo momento i trasportatori, quelli che fanno la cosiddetta home delivery, instant delivery, hanno vissuto in una specie di ambiente paradisiaco perché nelle nostre città non c'era più il traffico privato, non ci sono più persone che non si trovano presso le abitazioni perché la maggior parte del tempo le persone trascorrono ancora presso le loro abitazioni e non c'è più la necessità di dover firmare un pezzo di carta. Quindi la consegna dell'oggetto può avvenire anche senza il contatto diretto fra lo spedizioniere e la persona che ci consegna la merce e noi che la riceviamo. Ecco, questa situazione noi dobbiamo cercare di trasportarla anche nel periodo della fase 3 e nella nuova normalità. Massimo Marciani, Freight Leader Council, grazie. Buona giornata anche a lei. Grazie per l'ospitalità e buona giornata a tutti. La ripartenza si è subito scontrata con la precarietà della nostra rete infrastrutturale. Lunedì scorso abbiamo parlato della situazione difficilissima sul nodo Ligure per i lavori di messa in sicurezza di decine di gallerie, code chilometriche, tempi di percorrenza infiniti. È stato un weekend molto molto problematico. E in questi giorni si è aperto un altro fronte, questa volta in Umbria, lungo la Terni Orte. Per motivi di sicurezza è stato chiuso il viadotto Montoro. Traffico leggero e pesante, quindi deviato. Anche qui disagi infiniti, siamo in un nodo nevralgico della viabilità dell'Italia centrale. Stefano Bocco, presidente Confartigianato Trasporti Umbria, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci racconti cosa sta succedendo? Diciamo che per l'Italia centrale, soprattutto la parte est, parliamo delle Marche, che c'è un bel volume di lavoro in direzione del sud Italia, ma soprattutto zona Roma, dove è un grande mercato per tutti, con la chiusura dell'unica arteria che porta verso l'autostrada A1, il Castello di Orte è impedito da questo blocco su questo ponte che è la statale Ortana, è l'unica strada che porta verso il castello dell'autostrada. Ci sono percorsi alternativi, ma di difficile percorrenza, strade comunali o ex strade statali, ma con code interminabili. Il traffico pesante è stato deviato all'uscita del castello di Orvieto fino per raggiungere l'A45 passando per Todi, con un allungamento oltre che dei costi del trasporto, anche per quanto riguarda gli orari di guida e di riposo. Parliamo di uno spicchio d'Italia che da sempre soffre di un pesantissimo deficit infrastrutturale. Sulla I-45, la tratta che diciamo di riferimento in Umbria, è tutta percorsa da vari cantieri, diciamo per fortuna, perché era diventata una strada impercorribile a causa della mancata manutenzione di 6, 7, 8 anni. Per quanto riguarda i ponti, si sono costruiti i ponti negli anni, diciamo a venire, 50, 60, 70 anni di vita, di conseguenza è normale che abbiano necessità di manutenzione. Dopodiché, dopo la tragedia del ponte di Genova, chi si prende la responsabilità di far viaggiare i mezzi sopra i ponti se non sono messo sicuri? Ma è giusto per quanto riguarda la sicurezza stradale, però bisogna darci, cioè, un taglio a queste situazioni di blocco, mettere mano alle manutenzioni e soprattutto snellire e sveltire i lavori, altrimenti si rimane in panne. Stefano Bocco, presidente di Confartigianato Trasporti Umbria, grazie e un saluto. Buona giornata anche a voi, saluti. E anche noi ci salutiamo qui, siamo fuori tempo massimo, ora le notizie delle 14, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.